come faccio, come faccio, come faccio? Come faccio, come faccio, come faccio? Come faccio, come faccio? Come faccio, come faccio? Non lo so. Non lo so. Come faccio, come faccio? Come faccio, come faccio? Come faccio, come faccio? Non lo so. Tu. Non sapendo lingue parlo solo come faccio. Penso un po' difficoltoso dove vivo solo. Nel villaggio dei miei sogni c'è una storia infinita. Dura tutta resistenza, come faccio non lo so. Non lo so. Fortunatamente si può viaggiare. Tutto quanto per scoprire il mondo. Ma purtroppo senza lingue tutto è inutile per me. Yeah.